mi piace di vicino a casa tua, senti questi qua, me, aspetta. Sì, sì, io non ho più niente. Allora, quando? No, qua lì, io non vi vedo. Senti un'ora, qui, là, lì, e che ne so io? PMR, e chi sono? Cosa fanno? Devo essere le piscine. No, non c'è niente. Mi arrivano sulla scala, mi arrivano. Devo essere lì alle piscine del quadrato. Se c'è di PMR, 446031. Canale 3. No, qua zero di zero. Non arriva nulla, come sempre. Ma io dicevo di essere, cazzo. L'appagazione francese su questo canale, ma a fondo scala arrivavano in quattro. Avanti, avanti. Buongiorno Antonello, ben alzato. Buongiorno anche a te. Ben alzato, come va? Alzato. Se guardavi tutta la notte in piedi, sono maggio 2012. Dal caldo che c'era. Comunque non ti sento molto bene, non ti senti, il segnale è ottimo, ma la radio non mi piace. Non mi piace, e qua già va bene, già va bene. La radio non mi piace, non capisco un tubo. Se sono con 10 watt sono, con microfono normale. Non lo so, la sento un po', non lo so. Prova a darmi un controllo a me. 1, 2, 3, prova. Fa passaggio. Aspetta, guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. 9, 10, radio 5, c'è anche Marco Condor. Andare, chi era l'amico di Vocanzi, Antonello? Marco Condor, c'è, ho detto anche. Ah, ok. L'altro giorno ti stavo chiamando ma non ho risposto, sicuramente eri incasinato. Ma cosa è successo? Ho visto qualcosa sul cellulare, ma cosa è successo? Sono strappato in camera da letto, sono strappato, come coglione. Quindi me l'ho spaccato il naso in pratica, mi è fatto per essere chiaro. A proprio scorso non ci sono neanche andato. Però mi dà fastidio, non riesco a respirare bene, bisogna che adesso devo fare alcune visite domani mattina al Conti. Mi devo riempire il coso, cazzo, di raggi, capito? Devo fare 4 in tutto il corpo, quindi dalle 11:30 al minimo ne uscirò alle 4 o 5. Sarò tipo contattore Geiger, mi si accenderà la lampadina in mano quando esco. Ho capito, la signora Simona come sta? Sì, sta migliorando, sta prendendo dei succhi, una specie di succhi sono, 10 euro l'uno, grazie. Una 4 di quelli, 40 euro. E sigarette sempre usando, sta no? No, dicevo no, allora. No, sigarette non le sta usando, se no avrei detto che gli spaccavo la testa. Quindi, avanti non lavora. Speriamo che non usi le sigarette. Avanti chi vuole entrare col buongiorno. Avanti chi vuole entrare col buongiorno. Nessuno. Antonio, ci sono 2000 in ascolto, nessuno entra. Avanti Antonio. Avanti chi vuole entrare. Sì, c'è uno che tenta di trasmettere. Ciao Marino, mi copi? Biondo, buongiorno, ben alzato, come va? Male alzato, Marino. Qua c'è abbastanza caldo, nonostante lasciamo le finestre aperte, però non passa, non c'è corrente d'aria, capito? E mi sto aggiustando con un raffrescatore d'aria, in modo che vada direttamente sulla pelle l'effetto frescura, però poi la mattina mi sveglio tutto assudronato. Purtroppo anche io. E tua madre? Sembra la solita? Al solito, gira, si sveglia meglio di me, dorme meglio di me. Clima, se abbiamo quello portatile, ma non ne vogliamo mettere perché ogni volta a me personalmente mi fa male, o mi becca il collo, o mi becca la gola. Capito, non sono abituato, Marì. Con i prebianzi attenti. vietate per pesca secondo me, pesca la gola e così via, poi un casotto. Bene, bene, mi ha fatto piacere sentirti, dai, io ero incasinato, te lo spiego con calma, io, facciamo perdere. Anch'io mi sono messo molto bene, ho ritirato la risonanza, ho fatto il treno, ho fatto la risonanza, la gamba. Sono due mesi che ho fatto più di 40 punture, queste punture c'è cioè il cortisone, ma neanche il cortisone mi ha fatto effetto, sempre il dolore c'era, tra la gamba e un po' la schiena. Adesso l'ho fatto con quella, come si chiama, in via Porcellana, ho aperto una clinica dove c'era una volta la Nuova Sardegna. Allora Urigo ne vuole facere 50, del diritto ho pagato 70 euro la risonanza. L'ho fatta al 3, non si ricordava, il 3, non so se era meglio dire 3, e il 4 mi ha arrivato di me con tutto il referto, devo tirare il dischetto. Poche parole, sono artrosi e qualche altra cosa, roba di artrosi, la vecchiaia e carogna, non c'è niente da fare. Come stavo lavorando era un grillo, mi sono fermato, boh, tutto rovinato. Avanti Antonello. L'ho visto su Facebook qualcosa lì. Ascolta, siccome devo fare la risonanza magnetica anch'io, però devo essere... mi serve la convenzione della ASL, se no non è valida per l'invalidità, capito? Se sono convenzionati è bene, se no il problema è quello. Lì fanno tutto, fanno risonanza, fanno dell'ecografia, tutto dalla Z fanno, convenzionati anche con l'ospedale. Dunque è una società, diciamo, è quella che ha acquistato il policlinico, è lo stesso nome di poco parole. Se vuoi ti mando ti mando qua su WhatsApp e tutto quello che fanno, e c'è anche il numero di telefono, perché devi chiamare, ti rispondo di cosciente, da fuori, da continente, e poi ti dà appuntamento, e poi rispondo da Sassari. Però è tutta roba rapida, roba veloce. Qua non c'ero io, minimo ne hanno fatto una decina di risonanze, una decina, una dopo l'altra. Vabbè, ci vuole il tempo suo, se non sbaglio sono 30-40 minuti, però è roba veloce. Bene, avanti Marco. Sì, Antone, poi la risonanza, diciamo, non è come l'attacco che sono radiografie, lì sono campi magnetici e diciamo è meno radioattiva, dai. Anzi non lo è quasi nulla, credo, a meno che non ti debbano mettere qualche contrasto come per il mio caso. E comunque questa sanità alla fine è tipo quella americana, perché tu dici in America ti devi pagare l'assicurazione, no? Che ti copra le spese, e alla fine qua è la stessa cosa, con le tasse tu ti stai pagando già le spese mediche, cioè che tu abbia qualcosa o non ce l'abbia te le sei già pagate. E che sta peggiorando il servizio, cioè tu paghi le tasse però sta peggiorando, tant'è che ti devi fare un bel di roba di tasca tua, perché uno se ha un'urgenza non può aspettare un anno a farsi una risonanza se i sintomi sono abbastanza lonfi, capito? È un macello. Comunque c'è qualcuno sotto che chiama e sta anche interferendo con Marino. Chi vuole entrare sul 10, avanti. Buongiorno, non sono io, vedi quanto mette la faccia della risonanza magnetica, 5 minuti e sei a posto. Marino, una volta che si va in pensione siamo morti. Ciao, Claudio ben entrato, vai Marì. E io non lo sento, non l'ho sentito. Chi è Claudio Polotose? Cosa vai? Dai 10 giorni vai, non sto uscendo. Qua sei 9 Claudio, arrivi benissimo. È strano, deve essere zona d'ombra per Marino. No, è Claudio Sparviero, è il mio marito. Claudio avanti, non ti ho ascoltato, prego. Non è l'antenna della 27 questa, è giusto per darvi un saluto. Ciao Marisa, mi ascolti, ti ho detto che quando si va in pensione siamo morti, cambio. Adesso ti ho ascoltato 9.15 Claudio, 9.15 è abbastanza chiaro, è la radio Super 5, sì, sono in pensione, mi sto riposando, ma sono insieme ai medici fra una cosa e l'altra, fra la gamba e lasciamo perdere. Che per la risonanza la sua quanto ci voleva, ho chiesto un cardiologo a dicembre, o a tempio, ma la prova era buona, figurati, devi fare tutto a pagamento, non c'è nulla da fare, tutto a pagamento. Ho già preso il conto quanto ho speso per le riviste che ho fatto fino adesso. Ok, mi ha fatto piacere Claudio, mi saluti la signora, speriamo che stiamo tutto bene, la signorina. Avanti Claudio. Tutto a posto Marì, ci siamo cercati, siamo noi, loro già vanno avanti, non c'è problema. Ok, ciao Marco, ciao Antonello. Antonello vieni qua, la voce risonanza magnetica, ci mettiamo nel giardino lì, sotto la veranda, una cassa di birra, lo sai come ti torna la freschezza? Cioè, va bene, per me non mi sembra bene, il problema è domani mattina sono al Conti, devo fare 4 EVX uno attaccato all'altro, quindi quando esco fuori minimo si accenderà la lampadina. Antonio, forse ti conviene andare a Claudio, fai prima, è roba veloce a Claudio, con quella cassa di birra, guarda, esce un figurino. Ah, se è peggio la cassa di birra già mi ringiovanisco io, non è quello il problema, capito? È che adesso, meno male, si sta sistemando un po', si sta ripigliando, grazie a Dio, se no ci avevo la testa da una parte all'altra, infatti non stavo più in casa a baracchino, figurati tu, ma come vai Andelli? Dove vai? Quando sono entrato lì al coso, all'operazione civile, tutti, ho detto come vai, devo mettermi la mascherina oggi? E sono tutti con la pomorite, mi ha detto, cazzo, ho detto, guarda come prima, ho detto siamo a casa, che non dite un cazzo a nessuno, gli ho detto. Ne è uscito uno con quella specie di maglietta retinata a verde, quello era per il Covid dentro quella stanza evidentemente, quindi sembra tutto pieno, aspetta che apra Simone, due secondi. Va bene. Beh Marco, tutto a posto, ma questa radio sta sempre uscendo, sì, esce Maria Gua, abbandonata, vabbè, l'antenna è la multibanda verticale, quindi non è l'antenna adatta per la 27, ma comunque già segnale, già c'è, vi ascolto bene, tu sei oltre il 9, Marino è lo stesso, sul 9, vabbè Antonello ce l'ho più vicino, 9.20, però già vi sento, dai. Ok, avanti Marco. Sì, la modulazione va bene. Tu ti ho sentito già un paio di volte, la modulazione è gira è migliore di altre volte. In passato che eri a livello di strappo come modulazione. Questa è buona, è bella calda, profonda. Probabilmente come il formaggio, come il vino, con la radio come stagiona migliora, capito? Sarà così, è sempre la stessa, ma credimi, è tutto in fase di abbandono, soprattutto in questo periodo perché c'è troppo caldo, no? Non è fattibile stare in stanza a fare radio, anche la parte amatoriale è un po' in stato di abbandono in questo periodo. Però vai, tornerà magari il fresco, qualche volta già mi faccio sentire ogni tanto. Quello che posso fare, giusto per salutarvi, purtroppo la posizione mia è cambiata, anche se molto alta, ma è coperta da una montagna maledetta che mi crea problemi per Sassari, non lo vedo, per le altre zone va più che bene, Alghero, eccetera. Va bene, a te. Marino il cambio. Esatto. Ma poi mi dai quella cosa su WhatsApp, me lo mandi, così prendo l'appuntamento. Se è convenzionata con la SL, prendo l'appuntamento, almeno me la faccio, per 70 euro me la tocco le mezze piedi. Un attimo, riprendo che mi sta chiamando la signora. Ok, benissimo, ciao Claudio, mi hai sentito, salto per tutta la parola della signora, la signorina. Già ti faccio una bassa questi giorni, ti faccio una bassa che dobbiamo parlare. Beh, ciao Marco, ciao anche Antonello, saluto tutti gli ascoltatori per me corretti. Marco, riprendi, ciao a tutti. Ciao Marino, buon proseguimento di giornata, buon pranzo, se lo devi fare, e buon tutto, dai. Claudio, vai per i saluti. Ciao Marino, un abbraccio, quando vuoi, lo sai, per te il telefono è sempre attivo, ok? Ciao, saluti anche tu a casa, vai Antonè. Ciao Marino, ci sentiamo, va bene, alle prossimine. Ieri era bello a me, c'eri stato in PMR su canale 3, c'era la Francia, l'animatore francese era, fondo scala arrivavano, ma per quasi 3-4 ore, una cosa del genere, modulavano, erano in 7 addirittura, avevano usato il ponte. Ma c'è una rottura di balle questi francesi o Antonè, una rottura di balle, credimi, io a volte metto l'attenuatore anche in UHF, dove si mettono a fare il QSO, capito, e arrivano un bel forte qua, la Francia, la Spagna, arrivano un bel forte a livello locale, quindi inserisco anche l'attenuatore, sia in V che in U, perché sono una rottura di balle. Lo so, però ti ripeto, in questi giorni per me la radio è completamente spenta, troppo gallo. Vai Marco. Poi volevo chiedere a Antonello, ma francesi, veramente francesi di Francia o corsicani? Perché dalla Corsica agganciare il ripetitore di qua è facile. Infatti c'era, entrava anche in passato un radioamatore, vabbè, francese, la Corsica è francese, però è appunto dalla Corsica. Oh Antonè, riprendi, che mi sono dimenticato il resto del passaggio, vai. No, proprio dalla Francia, ho fatto il video, ho fatto, non aspetta, se è stato a fare, come si chiama, il nome, sentimi. Vabbè, io non ho antenna esterna e qua non arriva niente, Antonè, pazienza. Vabbè, non mi perdo niente. Claudio, riprendi. Via. Vabbè, no, non ti perdi niente, no, tanto non si comprende nulla quello che dicono, ma si tutti. Lo ripeto, troppo caldo, cioè adesso avevo acceso un po' tutto, HF, VU, anche qua, sono tutte radio separate, quindi ho commutato, ero in 10 metri, e poi avevo, se c'è qualcuno 27, ho visto che c'era segnale, e sono entrato a salutarvi. Però mi ritiro, Marco, dai, me ne vado un po' in veranda, cioè oggi si sta un po' meglio di ieri, anche se c'è il cane boccheggiando, perché lui, questo tipo, questa razza di cane, c'ha sempre caldo, ogni tanto viene qua sotto, si mette sotto la scrivania e c'è un po' più di fresco, ma è così, dai. Un abbraccio, ciao Marco, ciao Antonello, nuovamente a Marino, saluto a tutti quelli che sono in ascolto e dai, ci sentiremo sicuramente appena arriva un po' di fresco, qualche chiacchiera ce la facciamo, ok? A te di nuovo Marco, ascolto i finali, poi ti ascolto volentieri ma mi allontano dalla radio, vai Marco. Senti Claudio, in breve una cosa ti volevo chiedere, quindi la tua posizione comunque per la propagazione HF con l'Italia e immagino tutta Europa comunque buona, vero? Non buona, buonissima, non mattana forte, figurati che c'ho l'amplificatore, ma l'avrò usato se no 2 o 3 volte proprio quando il pilap è proprio incasinato, non ti fanno entrare, se no anche col 100 watt passo tranquillamente, c'ho di polo monobanda per i 40 metri, la verticale che mi fa tutte le bande, però la uso solo esclusivamente in 10 metri e poi di polo per gli 80 e per i 20 e per i 15, alti a voi invertita con qualificati, insomma non ho problemi perché l'area che ho è molto, molto larga, quindi a parte il giardino i bracci del dipolo escono fuori, c'ho tutta la parte di macchia mediterranea dove posso mettere anche 160, ma non li ho messi. No, non mi posso lamentare, l'unico handicap è praticamente locale come la 27, come il QSO locale eccetera, ma per quanto riguarda le HF grazie a Dio non ho nessun problema, ma anche in V e in U non ci sono problemi, Marco. Sì, va bene, dai. E quindi lì hai più libertà perché puoi mettere antenne ingombranti, capito? Il terreno è tuo, antenne grandi, tutto quello che vuoi, filari, direttive, V invertita, tutto. Rispetto al condominio non c'è paragone. Certo, quel condominio era bello alto, però anche essere indipendenti è una gran cosa, è una gran cosa. Domani dovrebbe rinfrescare, mi pare domani c'è un crollo di temperatura, domani 28 massimo, dopodomani 25, poi fra 3 giorni di nuovo 28, insomma respireremo un po' di più prossima settimana, dai, non è male, perché io ne ho già le scatole piene di questo caldo. Vai Antonè. Sono io, cazzo, non faccio due da stanotte, nulla, non ci vuole neanche respirare, figurati tu, in camera mia. Ero svegliato dal letto e incominciavo a suonare, stamattina per la alle 7, 6:07 mi sono alzato, sono stato dentro la doccia, mi sono fatto la doccia con l'acqua fredda, tanto l'acqua è a temperatura ambiente, quindi cosa devi fare? Mi devo usare lo scalo a bagno, sarà. No, infatti, adesso le docce vanno bene con l'acqua, tra virgolette, fredda, che come hai detto tu è temperatura ambiente, va benissimo. Adesso è ottima, a voglia, cazzo. Quando siamo un mese con questo caldo, anzi, forse di più. Io non so, Claudio, se è allontanato del tutto o può riprendere. Oh, mi sono anche dimenticato di... vabbè, non sono a pensiero. Ci sentiamo qua, stammi bene, buono. Quando vuoi entrare, già lo sai, non c'è problema. Fai un fluscio e già ti sento, non c'è problema. Mi chiamo a questo, gli dico di darmi un coso, un ombrellone, la bibita e cosa sbagliate. Ma una volta, adesso non so se sia vero o sia così raccontato, per non era stata fatta una zingarata a Piazzale Segni, qualche CB era andato e si era messo un tavolinetto di quelli pieghevoli con le sedie, l'ombrellone, ci sono messi all'ombra al centro di Piazzale Segni a bersi qualcosa. Vera è sta storia? Penso di sì. Ma tu non c'eri quando era 4 minuti fa, stavo alla televisione, e non gli viene in mente quello coglione, cazzo, che c'è di fronte, quello che si è aperto la pizzeria, ha preso come si chiama, non li pettate, i fuochi d'artificio, cazzo, si è messo in mezzo al parcheggio. Cazzo, volevo questa cosa qua, boom, boom, boom, dalla finestra, cazzo. Ma che cazzo è detto, quello a fianco a me, se quello sa con sopra, e gli tiro un pezzo di palo in testa. E invece dalla parte opposta, capito? scuola e fare divertire i bambini. Tu non è possibile, certo. Ma c'è gente scema, ce n'è assassina, ma con questo. Ho notato che dopo i quartieri Sassari usano i fuochi d'artificio, se tu li senti dal monte, da Lune Sole, dal centro di Sassari, a tutte le ore anche della notte, l'una di notte, così senti po, po, po, con una piccola batteria di fuochi d'artificio, quelli terra a terra, che fanno anche poco rumore, fanno più scintille che altro. Magari festeggiano compleanni, lauree, io non so come sia, festeggiano qualsiasi cosa con tante roba piccola, non è roba che sparano a Platamona, capito? Lì ci vuole la licenza di fuochino. Quelle sono quelle batterie che trovi anche da Lidl, sono quadrate, rettangolari, si tolta anche tonde, e ti sparano una sequenza di così artifici pirotecnici per la terra. E mi arrivavano più su della palazzina mia, immaginati tu, e se poco, una passata lì vento, si spostano, uno di quelli e mi piglia fuoco la casa a me. O te ne entra uno dalla finestra, ti becca a testa. Proprio di fronte alla camera di Simona, mi hai capito? Per carità, cazzo, mi sono cagato io, ma che cazzo è quello di fronte? Addirittura io avevo il culo di dalla parte della camera mia, figurati, io pensavo che ci fosse qualcuno sopra il tetto dove sono io e usava quella roba lì, invece era nella siepe, la messa, capito? Era attaccata alla siepe, dalla siepe e tre macchine. Se sbaglia poco mi si incendiava che macchina quello. Vabbè, quella è robetta comunque, Antone, è robetta, non è niente di... Certo, le scintille, che immagini, succede col distributore dietro di casa tua, succede come a Roma. Hai visto il botto? Un botto della Madonna. Ma lì era questione di gas, a quanto ho capito. C'era un mezzo che trasportava il GPL, quindi immaginati il botto che ha fatto. Già lo so, il GPL è una cosa allucinante, già lo sai. Prima esce la fiammata fuori. Poi c'hai intorno ai 10-15 minuti di tempo, non di più, per scomparire, dopodiché salta in aria, come è successo quella volta in quella stazione dei treni. Ti ricordi che erano morte un bel po' di persone di quel paesino? Non mi ricordo, Antonè. Non mi ricordo. Invece hanno evocato sulla Nuova Sardegna l'altro giorno, non so in quale occasione, avevano evocato l'esplosione, non evocato, come si dice, ricordato l'esplosione che c'era stata in via Cesare Battisti per quel gas antico di città che c'era all'epoca, presumo il gas di città, che aveva fatto danni, morti, per carità, guarda, si è sentito lo scoppio da casa, ma fortemi. Tu ce l'hai vicino più che altro. Io ho capito, già è vero quello. Era morta parecchia gente lì, era gas di città, era. Aveva preso. Ha fatto un bel danno, ha fatto. Era morto un po' di gente lì, in quella palazzina. Immaginati tu, cazzo, se ti trovi un tubo gas di città. Che perde poco, tutto un tratto, boom! In pratica la saturazione, lì sotto c'erano le cantine, capito? Quindi le cantine sono riempite di gas. A un certo punto è come ci fosse stato un bombolone sotto. Aspetta, ho aperto l'articolo, era 17 maggio 1979, quindi non avevo compiuto nemmeno 8 anni. Quindi erano vecchi impianti di gas di città, ma all'epoca, tu che sei più grande, questo gas di città aveva odore o era inodore? Se mi ricordo male era metano, la verità. Ma cioè non era come le bombole che hanno quella puzza di, che dovrebbe essere mercaptano, quello che aggiungono, no? Per fare odore. Cioè il pericoloso è quando il gas non lo senti, perché mi pare che forse il metano davvero non abbia odore in natura. Quello che è delle bombole è additivato con quella roba puzzolente, in modo che se c'è una perdita te ne accorgi. Domani te ne accorgi. Ti ricordi quella bombola in Corso Vittorio Emanuele? In pratica il gas, se non ricordo male, ha posto di salire, scende, hai capito? Non te ne accorgi nemmeno. Quindi tu vai a accendere, cazzo, una centinaia di un interruttore e cioè, salta in aria, capito? Sento propagazione. E da poco è successo in via Principessa Maria, angolo via Monsignor Marongi, può essere. Quello gli è scoppiata la, credo, bombola. Non ho capito la dinamica, se lui era addormentato, se era svenuto, cosa cavolo è successo. E se vedi le foto, ci sono i pezzi di palazzo sopra le macchine, sotto. Allucinante, guarda. Non so nemmeno se sia sopravvissuto il tipo. Una monca, gli altri c'erano, però gli ha piato fuoco, l'ultimo piano era. Sì, esatto, poi non so se fosse mansarda o piano normale, quello non ho letto. Era l'ultimo piano era. Ha già avviato il fuoco, c'erano i pompieri spegnendo l'incendio. Tutti i mattoni ne ha buttato giù, cazzo, mattoni, hai visto la macchina? La macchina come l'ha fatta, cazzo? Disintegrata lì, cazzo. Sembravano che l'avesse aperta, cazzo, con la mola. Un macello. E lì mi pare abbiamo parlato in radio, sì. Se tu sei addormentato e si rompe il tubo del gas, che c'è la bombola aperta, a pochi secondi ti inonda tutta la casa. E come ho detto, mi pare, che l'avevo raccontato a Giulio, mi pare. Un vicino magari ti viene a avvertire, anziché bussare a mano alla porta, ti suona il campanello, come fa la scintilla a saltare tutto. Aspetta, sto guardando la nuova, trovato cadavere di donna, overdose eroina, va, via dell'Asia, mi hanno trovato il fagottino, poveracci. Basta prendere questi ingegneri e ammazzarli, non ci vuole molto, perché tanto solo loro hanno quella porcheria. È roba nigeriana, capito? Mischiano e costa la cazzata, quanto costerà? 7 euro, 10 euro, 20 euro massimo, di più. Tutte le infili in vena e c'è buonanotte. Hai detto che era una nigeriana? No, ho detto che deve essere roba nigeriana quello che gli hanno dato. Capito? Perché i nigeriani mischiano di tutto, ci mettono. Prima almeno quando vendevano la droga la vendevano come si deve, cioè non ti faceva, era poca gente che andava in overdose a Sassari. Poi adesso hanno cominciato a entrare questi nigeriani, capito? Ti mettono di tutto, ti mettono. Ah, roba sporca, sì, sicuramente le tagliano con la roba peggiore che trovano. Bianco nel muro, capito? Raschia nel muro, come c'è la polverina bianca della tinta, per carità. Poi le dosi, ho visto come le tengo, cioè se le trasportano praticamente infilate nello stomaco o nel sedere. Secondo me qualche furore lo prendono. Poi le dosi se le tengono in bocca certe volte, ma già ne avrei comprato domani. Pucci, magari muori non per la dose in sé, ma per quelle porcherie che portano loro, capito? Basta che a uno l'ha fermato con 70 ovuli, non mi ricordo se a Olbia dove li hanno fermati. Per togliere i fogli gli ha superato, l'ha visto. Ah, da poco Alghero, quello che si è sentita male, hanno dovuto operare d'urgenza. E ormai non si scappa, Ormai c'hanno tutto, apparecchi radiografici, c'è già come passi. mi pare che riescono a capire se c'hai ovuli, se sei nervoso poi ti bloccano e non esci più e fanno tutti gli accertamenti. Macello, gli aeroporti non sono più come 30 anni fa, 40 anni fa che portavi di tutto, o quasi. Allora, ti mettono la, ti fanno la pulga e ti fanno cagare che sei in bagno, davanti a loro. Non deve essere un bel lavoro anche per chi lo fa, però vabbè, è un lavoro. Va bene. Oggi mangiamo qualcosa di leggero, niente di impegnativo e niente di caldo. Ieri una bella insalata di riso, fatta bene con tutti gli ingredienti, compreso uovo, capperi, scagliette di provolone piccante, la maionese, un bijou era, mamma mia. Io fagiolini e poi delle crocchette di pollo, scaldate appena appena nel fornetto. Comunque se vuoi fare la radiografia porto una di quelle lastre fotografiche, ci metto la testa nel microonde, a fianco ci metti la lastra radiografica, vedrai che compare l'immagine. Oh, domani devo farne 4 case. C'è scritto in pratica che tutte e quattro assieme non le posso fare, quindi in pratica devo dividere, non so in quanti, se ogni 40 minuti oppure due la mattina, due la sera. Allora vediamo. Intanto mi farò firmare senz'altro. Capito? Allora vediamo domani mattina cosa ne viene fuori, cosa mi trovano. Ma queste sono per il naso, per quando ti sei fatto male cadendo? No, più che altro per la trite, capito? C'ho le mani che ho la trite, più a parte quelle volte che sono caduto, col palmo della mano, non sono mai andato a pronto soccorso a farmi controllare i tenderi, capito? Devo fare i fianchi, le mani, l'altro non me lo ricordo cosa cavolo era. Ah, dietro la schiena, eccetera, eccetera. Ah no, io stavo pensando a quelle che mi hai detto tu del naso, perché è ricaduto di faccia, eccetera. Vabbè, ma quella è risonanza, vero? Non sono radiografie. Quello che faccio domani mattina sono radiografie. La risonanza magnetica devo farla al cervello, dietro, in pratica. C'è, come si chiama questo... Non mi viene in mente il nome. Capito? Parte dalla testa e scende al collo. Non mi viene in mente il nome adesso, vabbè. Devo farla lì. Siccome hanno aperto questa cosa, viene 70 euro. Se è convenzionata con la SL è valida. Se no non posso farla, è l'ultima che pago. Non varrebbe nulla. Cosa dietro la testa, cosa c'è? C'è il cervelletto, c'è il midollo allungato, cos'altro c'è dietro? Vabbè, io ne ho fatto tante per questa patologia di risonanza, però per fortuna appunto non è TAC sono radiazioni, è come se fossero una marea di radiografie una dietro l'altra, invece risonanza magnetica più o meno appunto sono campi magnetici, è roba meno invasiva per le radiazioni, capito? E vabbè, dai, poi vedrai che è una fesseria. A me l'avevano fatta anche con il contrasto. Il contrasto credo che sia radioattivo, ma blandamente radioattivo, cioè se ne va con la pipì poi, capito? Come si dice, lo smaltisci. Devo fare il tronco encefalico, in pratica. Sì, così lo chiamano, sì. Tutta la parte, già ho capito. Sì, lì c'è il midollo allungato, cervelletto, tutta quella parte di dietro. Per la schiena anch'io dovrei fare i controlli, ma non ne ho gana, Antone, francamente. Cano mi si bruciano, ne ho le tasche piene di fare i controlli, Antone, a un certo punto uno la prende come viene. Tanto mille anni non mi come dire, per sempre non viviamo. E quindi. Sì, vabbè, ma devo farlo per forza io. Capito che ho fatto la visita neurologica e in pratica ha trovato questa cosa strana, mi hanno messo questa specie di elettro in testa, capito? Dice deve fare questa risonanza magnetica e poi venga da me, mi ha detto la dottoressa lì a Lina. Ho detto vabbè, cazzo, si sono già basati un anno e mezzo, già se ne ricorda lì. Sì, ma anch'io mi sto trascurando, non aggiungare, Antone, proprio. Vabbè, come va, se ne voglia faccio i controlli, se non ne voglia, buon viaggio. Ok, Antone, gira, io stacco, fra un po', non subito, vado in cucina, ci mangiamo una cosa proprio leggera. Magari fresca, poi ci sentiamo quando capita. Ok, va bene, non c'è problema. Adesso vado a prepararmi anch'io a mangiare. Per me, per Simona, sto facendo il fornetto 5 minuti, scaldo quella a fare, intanto i fagiolini sono già freddi e bollenti, che è inutile mangiare. Ci sentiamo al limite o stasera o domani o un altro giorno. Io sono molto incostante, io ti dico sempre quando capita, per oggi è stata una cosa casuale, ho visto premere la portante, ho chiamato. E vabbè, c'ho sempre la Fayette e praticamente non sto facendo girare più apparati. Da quando mi hai dato questo, sempre qua, installato, sto usando sempre quello, ogni tanto al massimo posso fare il cambio col 3009 che è sotto. E va bene, ci avevo fatto anche di ex con questo, quel giorno di propagazione strepitosa per l'Italia, veramente mai vista dopo tanti anni una cosa a questo livello. Ok, ciao Antone, buon pranzo, saluta Simona e buon tutto. E io, ciao, buon pranzo anche a te, saluta mia mamma, a tua mamma, già ci sentiamo e ci vediamo. Domani già sono al Conti, meno male a fare questi esami alle 12 e mezzo, chissà che mi tengano tutto il giorno, grazie. Quando esco vado a bere un litro e mezzo di acqua a casa e vado a pisciare dentro il bagno delle donne. Ah, ce l'hai alle 11 e mezza l'appuntamento, così tardi? E allora? Vabbè, dai. Importante che lo facciano. A certi li lo fanno aspettare, mesi e mesi e mesi. Oppure a pagamento, allora meglio che lo facciano. Vabbè, di nuovo Antone, ciao, buona giornata. E io, ciao, a tanto, alla prossima.